Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Il 21 marzo di quest'anno ci lasciava, dopo una vita lunga e intensa, Monsignor Giovanni Nervo, per tutti ancora Don Giovanni. 94 anni, ordinato sacerdote durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato nel 1971 il fondatore e il primo presidente della Caritas Italiana, la più grande realtà benefica del nostro paese. Ma lui si devono anche la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova, che formò assistenti sociali come veri e propri professionisti, e la Fondazione Zancan, che da quasi 50 anni studia il mondo del welfare, delle politiche sociali e sanitarie. Superando i vecchi concetti di elemosina e di beneficenza, Don Giovanni riuscì ad anticipare i tempi, ad essere profeta nel senso più autentico del termine. Caro gli era l'esempio delle gemme terminali. Da Studi Zancan, numero 6 del 2011, di Don Giovanni Nervo. La sede estiva delle attività della Fondazione Zancan a Malosco, in provincia di Trento, è immersa nel bosco di abeti e di pini. Se si osserva la loro crescita, si vede che le piante, fino a che sono vive, crescono in tutte le loro cellule. Ma la crescita è più visibile e a rischio nelle gemme terminali. Abbiamo applicato questa immagine anche allo sviluppo della società. Ci sono fatti, fenomeni, tendenze che indicano dove la società cresce e si modifica. La strategia della Fondazione è stata di cogliere questi punti significativi di cambiamento e sviluppare su di essi studi, ricerche, sperimentazioni con chi condivideva questo obiettivo di crescita e di cambiamento. È con noi in collegamento, carissimi ascoltatori, Monsignor Giuseppe Benvenu Pasini, presidente della Fondazione Zancan e collaboratore di lunga data di Don Giovanni. Grazie per essere con noi. Grazie. Monsignor Pasini, quali sono state le gemme terminali, queste novità della società da lui individuate, più care a Don Giovanni, quelle che lui ha scorto per primo? Beh, diciamo subito che il punto di partenza da cui partiva Monsignor Nervo era la persona umana, no? Lui si preoccupava di capire quali erano i bisogni delle persone, soprattutto dei più deboli, e le modalità più idonee per dare una risposta ad essi. Naturalmente alcune di queste intuizioni erano sue esclusive, altre erano anche simultanee ad altri centri, ma la specificità di Monsignor Nervo è che è stata quella di organizzare attorno a questi temi che lui considerava emergenti dei seminari di studio in cui invitava un gruppo piccolo di persone già impegnate nel settore per sviluppare attorno a questi temi la ricerca e anche la sperimentazione per rispondere a questi bisogni. Ora, indico alcuni di questi numerosissimi temi. Primo, la deistituzionalizzazione dei minori, degli anziani, dei disabili e lo sviluppo di forme alternative e dell'assistenza domiciliare integrata. Cioè sostanzialmente la risposta che a questi problemi di minori, anziani eccetera, tradizionale era quella dell'istituto l'esigenza che è emersa negli ultimi anni è questa la risposta giusta o la persona ha bisogno di un contesto familiare dove possa veramente esprimere tutta anche la sua affettività. Quindi ecco lo studio delle forme alternative alla istituzionalizzazione. Un secondo tema è stato quello del volontariato, perché da notare che già il nome stesso volontariato è emerso nel primo convegno sul volontariato organizzato dalla Caritas Italiana a Napoli nel 76, dove varie realtà di volontariato che avevano nomi diversi, per esempio da San Vincenzo c'erano i confratelli da San Vincenzo, c'erano, si chiamavano conferenze, altre si chiamavano con nomi diversi, ma ha detto ma tra di noi il comune denominatore è che facciamo un servizio volontario gratuito, e è cominciato a chiamarsi volontariato ed è nata una serie di seminari di studio per capire cos'è questo volontariato, com'è il suo modo di agire, qual è lo spazio reale che lui ha, eccetera. Un terzo tema è quello degli immigrati nel nostro paese, perché John Erwin è stato uno dei primi che ha colto questo problema degli immigrati, considerandolo proprio un fenomeno emergente, cioè che andava crescendo e un fenomeno che non sarebbe più ritornato indietro, ma sarebbe cresciuto progressivamente con la globalizzazione. Ecco, un quarto tema è quello del cosiddetto piano di zona come modello di programmazione partecipata sui servizi del territorio, cioè lo Stato, l'amministrazione pubblica organizza dei servizi sul territorio, ma qual è il modello che consente ai cittadini di essere membri attivi anche nell'organizzazione di questi servizi, in modo che essi rispondano veramente ai suoi bisogni? E quindi è nato il piano di zona, diciamo. Un altro tema è quello della valutazione dei servizi, cioè è raro il costume di valutare i servizi dopo che sono stati fatti per vedere se e in che misura hanno risposto ai bisogni dei cittadini, dove vanno corretti, e la Fondazione Zancan, sotto l'impulso di Nervo, ha portato avanti tutto questo processo proprio della valutazione, la ricerca valutativa cosiddetta, con strumenti di verifica, di valutazione dei servizi. Un approccio scientifico, professionale. Ecco, vedo tanti ambiti diversi, tante intuizioni in campi completamente disparati, perché tra l'immigrazione e l'assistenza agli anziani c'è un abisso. Però l'uomo che assiste è sempre quello, cioè vedo la centralità della persona. Esattamente, e soprattutto l'uomo più debole, perché gli altri si arrangiano in qualche maniera, no? Sì, riescono a salvarsi quando le cose non vanno, se non altro perché hanno i soldi per pagarsi i servizi alternativi, ma la gente più debole o ha questi servizi oppure non ha alternative, perché non ha i mezzi per farsene dei propri. Vedo tanta diversità anche nelle azioni. Tiziano Vecchiato, il direttore della Fondazione Zancan, nella giornata studio dello scorso maggio ha paragonato Don Giovanni Nervo a un artista rinascimentale che unisce diverse discipline per un'unica arte. Sì. È d'accordo? Indubbiamente lui addirittura pensava a Leonardo da Vinci, insomma, i personaggi, il discorso andrebbe approfondito. Indubbiamente la sua affermazione ha un fondo di verità. Per quanto mi riguarda, quello che io ho colto in lui è la estrema capacità di abbinare insieme l'originalità delle intuizioni culturali, quindi l'approfondimento della cultura, e la capacità organizzativa per tradurre le intuizioni e gli approfondimenti nel concreto e nel vissuto. Questo non è facile, perché molte volte noi, di fronte alle persone di grande cultura anche, vediamo che raramente sono anche concrete, cioè capaci di tradurre nel vissuto, no? Sono grandi idee, ma restano un po' per aria, ecco, certo. Invece lui aveva la capacità di tradurle anche con una enorme capacità organizzativa. Porto degli esempi. Ecco, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo per una piccola pausa. Grazie. Sì, va bene. Il bene di tutti. Parliamone. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone, siamo in collegamento con Monsignor Giuseppe Benvenu Pasini, presidente della Zancan e collaboratore di lunga data di Monsignor Giovanni Nervo. Questa puntata la dedichiamo in qualche modo a Monsignor Giovanni Nervo, è stato un innovatore in tutti i campi del sociale. Prima dell'interruzione per la pausa, Monsignor Pasini ci stava facendo degli esempi concreti di questo approccio innovativo di Monsignor Nervo in questi campi. Sì. Ecco, dicevo che aveva la singolarità di unire l'approfondimento culturale, che scavava molto in profondità, dalla capacità di organizzativa di tradurre queste intuizioni poi nel vissuto. E mi piacerebbe ricordare anche soltanto tre piccoli esempi. Quando ci fu il terremoto del Friuli, una intuizione che lui ha avuto è che la gente non aveva bisogno di assistenza nei primi momenti, ma il dramma per molti di loro, che avevano perduto magari i parenti, la casa, i beni, era successivo, anche nei mesi successivi, per cui una vera carità, un vero aiuto era di continuare a stare accanto a queste persone fin tanto che non uscivano dall'emergenza e non entravano nella ricostruzione. I gemellaggi, giusto? Ha inventato oltre 100 gemellaggi nel Friuli, fra altrettante diocesi italiane e i villaggi colpiti, e in questi gemellaggi un gruppo di persone restava lì sotto le tende assieme ai terremotati ed è rimasto lì creando rapporti di amicizia che hanno continuato anche successivamente. È un modello che è stato anche replicato in tante altre emergenze. Esattamente. Un altro è la carità, dice, non deve avere confini. Lui aveva scoperto in un viaggio che aveva fatto in Asia che c'erano molti rifugiati in Thailandia che erano stati cacciati dai loro paesi, il Vietnam, eccetera, altri paesi comunisti, e quando è tornato, parlando con il governo, ha detto: guardate che noi dobbiamo dare un segnale a questa gente di solidarietà per accogliere magari un piccolo gruppo, ma il governo è stato molto sordo. E allora ha insistito, ha allargato una sensibilizzazione anche con altre realtà associate, finché il governo ha ceduto e ha detto: io concedo che possano venire 3.000 rifugiati a patto che voi li organizziate e assicuriate voi, perché lo Stato non darà una lira, assicuriate alloggio e lavoro per 2 anni. E lui ha organizzato con le diocesi italiane, sono 3.000 persone che hanno trovato posto e si sono poi integrate anche nel nostro paese. L'ultimo è l'intuizione, per esempio, nell'aiuto dato ai popoli del terzo mondo, cosiddetto, che questi aiuti vanno dati non soltanto nell'assistenza, ma per creare condizioni di autonomia di questi popoli. E quando ci fu la siccità in Eritrea nel 1984, praticamente lui è riuscito a organizzare con una compagnia che veniva dal bellunese, tecnici diciamo, organizzare un lavoro lì in Eritrea costruendo 22 dighe per raccogliere l'acqua nella stagione delle piogge e in modo da averla anche successivamente, e 300 pozzi in altrettanti villaggi. Ecco, l'intuizione, la carità deve essere promotrice di autonomia, quindi tradotta in concreto. Questo mi sembra che sia una singolarità veramente non sempre apprezzata, ma che è veramente eccezionale, Monsignor Nervo. Una vita all'insegna del Vangelo, ma anche all'insegna della Costituzione. Sì, senza dubbio. Monsignor Nervo aveva lavorato con l'onorevole Gui, allora non era onorevole, era professore, ma già prima che si arrivasse alla liberazione nel 44, all'inizio del 45, quando c'era ancora in fase la costituente, diciamo, ma lui quindi amava molto la Costituzione, ma soprattutto la valorizzava anche nei suoi interventi per 2 motivi. Primo, perché dovendo aiutare per impegno i poveri, era convinto che il problema non era quello di semplicemente di assistere i poveri, ma anche di combattere alla radice le cause della povertà e di restituire, quindi l'esigenza di restituire ai poveri il diritto a una vita dignitosa. Ora, questo era possibile soltanto con aiuto del governo, facendo riferimento ai diritti che tutti hanno nella Costituzione fissata. Guardando proprio la Costituzione, metteva in evidenza soprattutto un paio di articoli, dei primi articoli, dove ci sono i fondamenti dei diritti delle persone. Pensate all'articolo 2, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle persone e l'adempimento dei doveri. L'articolo 3, che parla della pari dignità sociale, ma perché questa dignità sia veramente pari, la Repubblica è impegnata a rimuovere gli ostacoli di ordine che di fatto limitano, cioè sostanzialmente, lui diceva, qualunque sforzo noi possiamo fare nei confronti dei poveri sarà assolutamente inadeguato e insufficiente se non interviene lo Stato con il suo potere e con le risorse che lui ha per rimuovere, per restituire ai poveri la dignità e i suoi diritti. Ecco perché si attaccava molto alla Costituzione. Grazie per questi suoi contributi, un'eredità ricca quella raccolta non solo dalla Diocesi di Padova ma anche dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Zancan. Grazie molto anche a lei. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima. Parleremo di politica, parleremo di larghe intese. Da 2 mesi fa sembrava che non ci sarebbe stato un governo in Italia, adesso c'è un governo e chiederemo i motivi di queste scelte politiche che hanno portato alla nascita del governo Letta. Potete riascoltarci sul podcast sul nostro sito o potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, un saluto e alla prossima. Avete ascoltato? Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.